febbraio 1600. Sentenziamo e dichiariamo te, Fra Giordano Bruno, essere eretico impenitente, pertinace ed ostinato, e perciò essere incorso in tutte le censure ecclesiastiche e pene. E come tale, te degradiamo verbalmente e dichiariamo dover essere degradato, siccome ordiniamo e comandiamo che sii attualmente degradato da tutti gli ordini ecclesiastici, maggiori e minori, negli quali sei costituito, secondo l'ordine dei sacri canoni. Ti rilasciamo alla corte di voi, Monsignor Governatore di Roma qui presente, per punirti delle debite pene. Di più, condanniamo e proibiamo tutti i tuoi libri e scritti, come eretici ed erronei e contenenti molte eresie ed errori, ordinando che tutti quelli che sinora si sono avuti siano pubblicamente abbrugiati e come tali che siano posti nell'indice dei libri proibiti, siccome ordiniamo che si facci. Si avvertiva talmente tanta tensione durante la lettura di questa sentenza da indurre lo stesso condannato a commentarla con queste parole. Avete più paura voi ad emettere questa sentenza che io nel riceverla. A pronunciarle fu Giordano Bruno, l'eretico definito impenitente, in quanto si rifiutò di abiurare e quindi di rinnegare il proprio pensiero pagando con la propria vita. Era l'8 febbraio 1600 e 9 giorni dopo la lettura di questa sentenza, ben dopo 8 anni di carcere passati a cercare di difendersi dalle accuse di eresia, quando i confratelli di San Giovanni de Collato accompagnarono il prigioniero in piazza Campo dei Fiori, a Roma, dove fu spogliato nudo, legato ad un palo e bruciato vivo insieme alle sue opere. Condannato per quello che oggi potremmo definire reato di opinione. Del cristianesimo rifiutava i dogmi e con la sua morte Giordano Bruno è diventato simbolo di coerenza, integrità e libertà intellettuale. Ho combattuto, ed è tanto. Ritenni di poter vincere, ma natura e sorte, studio e sforzi repressero. Ma già è qualcosa essere sceso in lotta, poiché vedo che in mano al fato è la vittoria. Fu in me quanto era possibile, e che nessun venturo secolo potrà negarmi, ciò che di proprio un vincitore poteva dare. Non aver avuto timore della morte, non essermi sottomesso, fermo il viso, a nessuno che mi fosse simile. Aver preferito morte, coraggiosa a vita pusillanime.